Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Peranelotto, il lotto e i gratta e vinci da 20 di qui di là, è la malattia del giocare e poi dopo guardano i miei prezzi, oddio no, cioè si comprano la mela bacata, però devono giocare. Una signora che si è rovinata con il gioco, ha giocato gratta e vinci, lotto, pensione intera, affitto di casa, e quindi ha mandato sul lastrico la propria famiglia. Quando noi vediamo una slot machine, siamo convinti che all'interno di questa ci sia soltanto una macchina, quindi soltanto un cuore che pulsa rivolto all'amministrazione finanziaria e dia quelle informazioni. Ce ne potrebbero essere due. I proventi del gioco d'azzardo nel nostro paese coprono il 4% del PIL nazionale. L'anno scorso sono stati giocati 80 miliardi dagli italiani. Noi non dobbiamo giocare tanto per vincere poco, noi dobbiamo giocare poco per vincere tanto. I soldi vanno guadagnati. Ci siamo, ormai è diventata una ritualità ineludibile per Melog, sotto le feste natalizie e capodannesche, riprendere il tema del gioco. Il rapporto fra gli italiani e il gioco è un rapporto ormai consolidato, un rapporto che a qualcuno da un certo punto di vista preoccupa fortemente. Gli italiani stanno giocando troppo, gli italiani si rovinano, gli italiani stanno percorrendo una china alla quale non usciranno, e poi ci sono le storie vere delle povere vecchiette che si sono rovinate con le slot machine, delle famiglie distrutte, delle persone prese dalla scimmia di gioco che vanno tenute legate in casa. E poi c'è l'altro versante di quelli che dicono: in realtà siamo un popolo libero e laico, ognuno ha diritto di fare le sue scelte, il gioco, come avete sentito nella nostra copertina, fa parte di un gettito notevole sul nostro PIL nazionale, che incide sul nostro PIL nazionale. Voi come la pensate? Voi quale esperienza avete del gioco? Oggi vedremo quali sono le novità nel campo del gioco. Periodicamente ci sorprende sempre di più il fatto che ormai il gioco non richieda più lo spostamento fisico dal luogo in cui viviamo con la famiglia, in cui abbiamo una vita apparentemente legata ai canoni della rettitudine, alla normalità. Non ci sono più i luoghi della trasgressione, i luoghi del gioco, non c'è il casinò, non c'è l'abisco, perlomeno continuano ad esserci, ma esiste una forma asettica, una forma apparentemente priva di rischi, che è il gioco online. Il gioco online si è molto allargata, gli italiani, al di là di quello che dicono rispetto al digital divide che li vedrebbe arretrati, in realtà sono dei grandi frequentatori della rete e la frequentano molto di più giocando. 800240024, parlate del vostro rapporto con il gioco. Fabio Felici, buongiorno. Buongiorno. Allora, Fabio Felici ci ha spesso accompagnato in queste nostre indagini nel mondo del gioco, una persona documentatissima, da anni segue come giornalista il mondo del gioco, adesso è direttore di Agimeg, che è un'agenzia giornalistica sul mercato del gioco, una neonata agenzia. Eh sì, una neonata agenzia, diciamo, ricomincio da tre, dopo due esperienze passate, questa è la terza volta, ma perché, come dico sempre, questo settore merita una dignità giornalistica che per troppi anni non ha avuto. Biagio, buongiorno, fermo un attimo. Buongiorno Gianni, Biagio. Biagio. Sì, salve. Prima ancora cominciamo a dire le novità, vediamo il tuo punto di vista. Il primo ascoltatore che chiama, ti do subito diritto di parola. Ok, Gianluca. Niente, io praticamente da giocatore ti posso dire che non vado mai a giocare, nel senso che non me lo posso più permettere, però da giocatore voglio dire... Perché ti sei giocato anche le mutande, non c'è più niente? No, no, nel senso che ho provato a distogliere, diciamo, tutte queste persone che giocano alle macchinette, che sono già, voglio dire, sono già vincenti le macchinette, cioè, nel senso che io se devo giocare gioco con una... Gioco al 50-50, ecco, quindi una volta di tanto in tanto potevo andare a casino, adesso non me lo posso più permettere. Ma quindi tu sei un giocatore di vecchia generazione, quello che ancora usciva, si spostava, programmava il viaggio e andava a fare la botta, a cercare la botta di vita. Quando ero scapolo, sì, però di tanto in tanto mi fermo a chiacchierare con queste persone che giocano alle macchinette e io gli dico che da giocatore dico che sei già perdente, perché giochi, perché lo fai? Cioè, non mi sanno rispondere. Cioè, io da giocatore ti dico che io non ho mai buttato i 50 centesimi nelle macchinette. Se devo fare una partita a poker è diverso, lì hai il 50 e il 50. Ma alle macchinette è già, cioè, è già tardente a priori la cosa. Non capisco come mai... Quindi tu ti classifichi, Biagio, come un giocatore classico, di vecchia generazione. Cioè, Gianluca, se io gioco a blackjack al casino, la carta la guardo, se mi piace gioco, altrimenti niente, 50 e 50, mi spiego, cioè, lì con la macchinetta a priori si perde e non capisco. Allora fermiamoci un attimo, Biagio, fermiamoci un attimo, tranquillo. Fabio Felici, abbiamo iniziato subito con una testimonianza, ci è arrivata da un ascoltatore giocatore. Tu che sei vecchio del mestiere, dammi innanzitutto una collocazione di Biagio. Chi è? A che tipo di categoria appartiene? È uno di quei giocatori, devo dire, esperti, diciamo così, dove piacciono i giochi, dove ci metti del tuo. Il poker alla lunga vince chi è più bravo, non quindi chi è più fortunato. Quasi un professionista. Però ecco, quello che ha detto anche il signor Biagio adesso telefonando, ricordiamo, il gioco non è una hollus, cioè non è un istituto di beneficenza. Quando si dice lo Stato vince sempre, è vero, ma non è che nessuno diceva il contrario. Quindi, ma questo capita in tutti i paesi del mondo, lo Stato ci guadagna dappertutto, è chiaro che è lo Stato a vincere. Poi per fortuna, come diceva Gianni Morandi, uno su mille ce la fa, c'è chi trova il gratta e vinci fortunato, chi imbecca magari la partita di poker giusta, però questo è normale, non vedo perché lo Stato ecco, deve essere come diverso invece il giocatore che oggi è più sotto l'occhio dell'attenzione della stampa, un settimanale uscito proprio giorni fa con le slot machine sulla copertina, rispetto a Biagio che ci ha telefonato, che tipo di giocatore oggi è più presente in questa nuova forma di giocare? Beh, diciamo che i giocatori più presenti sono i giovani, perché come dicevi giustamente dall'inizio, il gioco si è spostato molto sull'online. Online vuol dire un pubblico giovane, un pubblico diciamo di terza generazione in questo senso, perché non ci vedo mia madre a 70 anni a mettersi su internet a fare una partita a poker o grattare un gratta e vinci online. Quindi è chiaro che parliamo di un pubblico a cui bisogna prestare a molta attenzione in questo senso, ma è sempre meno pubblico, perché abbiamo visto nella seconda parte dell'anno il gioco in Italia è crollato. Questo è il dato. Nella crisi, certo, comincia ad andare in crisi un anno e mezzo di ritardo, la tenia della crisi, quella che ti mangia da dentro, è entrata ad agosto, è entrata anche nel gioco. Ti ricordi l'anno scorso facevamo una puntata proprio di questo periodo, tu dicesti l'unica cosa che non è in crisi è il gioco, invece? Invece è tutto cambiato. Guarda, è un dato, la dice lunga, a giugno il mercato del gioco faceva registrare un più 23% di entrate, finisce l'anno, finirà l'anno il 31 dicembre con un più 4%, cioè un leggero aumento a fronte però di una spesa ridotta. Gli italiani stanno giocando di meno, questa è un'alchimia tecnica che poi se vuoi spieghiamo, ma gli italiani stanno giocando di meno per la prima volta in 500 anni di storia del gioco in Italia. Ad agosto gli italiani hanno giocato 400 milioni di meno, cioè non ci sono più soldi neanche per il gratta e vinci, quindi questo Eldorado non esiste più in questo senso. Quindi sono aumentati, ho visto gli spot in televisione con diciamo letture accattivanti per dire andate a giocare, si vince di più, ci sono grandi offerte, si vince più di prima. Però cosa è cambiato dal punto di vista proprio del gioco, ad esempio le slot machine online, molti parlano di questo, da casa sì, si può giocare alla slot machine, come dicevi appunto, qualcuno la dice, le slot entrano nel salotto di casa, ormai te le trovi sul tavolo, sono le slot online, cosa che viene giocata in tutto il mondo, gli italiani ci giocavano all'estero, adesso si può fare anche in Italia, quindi più che di soldi levati agli italiani, sono risorse che recuperiamo dall'estero e tra l'altro sono andati anche a cannibalizzare altri giochi online, quindi chi adesso fa una puntata a una slot online magari non fa una partita a poker o non fa una scommessa online, quindi non sono soldi tolti in più, perché i dati dimostrano questo, sono soldi girati, cioè si praticano meno giochi da una parte e se ne fa un'altra, quindi siamo nel periodo della cannibalizzazione tra i giochi, i soldi sono finiti, sono quelli e più di quelli non possiamo giocare. Diciamo c'è una fetta di liquido disponibile e cercano di spartirsela inventandosi nuove formule, moltiplicando e differenziando l'offerta. Sentiamo alcuni giocatori. Massimo, buongiorno. Massimo da Macerata, questo. Non sono un giocatore, Nicoletti, volevo portare una testimonianza solamente personale sul lato delle cause che ci hanno portato qui, non so se cerco di essere sintetico. 14 anni fa un governo D'Alema, tanto per dirci, un mio amico gestisce delle sale bingo, apre una sala bingo, dietro a queste sale bingo c'erano già tutti i gruppi politici, destra, sinistra, eccetera, eccetera, per prendere le licenze. Questo mio amico mi fa, ma guarda che l'obiettivo nostro di questi qui che sono entrati con le sale bingo non sono le sale bingo, ma mettere le slot machine, arrivare alle slot machine. Sono passati 14 anni, ecco il risultato. Sono stato forse troppo sintetico. Eh no, faccia capire meglio. Lei dice c'è un grandissimo affare dietro. Io le rispondo, voglio essere laico e non voglio né difendere. Ma perché non ci dovrebbe essere un affare dietro? Ma no, ma è giusto che ci sia un affare dietro, però anche la legalizzazione. Io dico, non mi va bene che ci sia lo Stato, Nicoletti, e non mi va bene che questo cancro, cioè io ho 48 anni, mi ricordo, giocavamo al bar a Ramino, c'era c'era una cosa, tutti i giochi proibiti, il Ramino, la Scala 40, siamo passati da un proibizionismo così un po' quello peloso all'italiana, alle slot machine, allo stato tipo del Nevada. con la conseguenza che di questa cosa se ne ingrassa lo Stato. Lo Stato è poi cos'è? Che è una tassa sulla povertà, tutta povera gente che sottrae, non dà risorse allo Stato. Ma lei se vorrebbe uno Stato etico e confessionale. No, piano con le parole, lo Stato etico non lo voglio assolutamente. Io sono un liberale, però io voglio dire che c'è stato un disegno politico, proprio un disegno politico da parte dello Stato e anche di gruppi, di partiti che stavano vicino allo Stato per andare a mungere la povera gente, ecco il risultato. Cioè lei dice adesso... dietro c'è diciamo una pericolosa lobby che approfitta delle debolezze altrui. E oggi io devo pagare il Servizio Sanitario Nazionale per curare la ludopatia. Questo è il ragionamento. Ma perché secondo lei, perché secondo lei non si sono attrezzati ugualmente anche sul piano della legalizzazione della prostituzione? Anche quello è un vizio, se visto dal suo punto di vista. Perché per il Vaticano un conto giocare a carte e un conto andare a puttane. Ah, quindi per il diavolo diciamo è meno grave, ecco, giocare a carte, certo, che andare, certo, a puttane. Certo. È il suo punto di vista. Io... Vabbè, la parola. Vabbè, le puttane sono puttane, non è uno può ecco chiamarle in un'altra maniera. Basta col politicamente corretto. No, ecco. Sì, piove sul bagnato. No, Massimo da Bologna. Adesso la seguo però. Massimo da Bologna, un altro Massimo. Salve, buongiorno. Allora, guardi, io volevo dire, io ho 60 anni, io fino a 9-10 anni fa giocavo a tutto, cioè da poker a biliardo, mettevamo i soldi dentro le buche, le bocce che andavano dentro si prendevano i soldi, giocavamo alla carta più alta, cioè io giocavo soldi con qualsiasi cosa facessi. Poi ho fatto una partita con degli amici, una partita poker con degli amici, e uno di questi miei amici, premetto che siamo tutti operai, cioè operai da attualmente da 1000 euro al mese. Sarà messo d'accordo e l'ha solata, come in un film di Pupi Avati. Esatto, io facendo una partita con degli amici, a un mio amico vinsi 3000 euro, no? Io vidi la faccia di questo ragazzo qua che praticamente, cioè, non gli è venuto un infarto, ma poco ci mancava. Ma scusi, ma quando suo amico si è seduto al tavolo da gioco, aveva la certezza matematica di vincere? No, ma il problema è un altro, il problema è che quando tu stai perdendo e hai pochi soldi, rilanci sempre per riuscire a rifarti, cioè, stavolta mi va fatta bene, allora... Vabbè, mica c'hai un coltello puntato alla gola, scusi. Bravissimo. No. Non provo tenerezza e pietà, uno lo fa, ma il problema è quando hai la malattia del gioco, non è che te ne rendi conto, è un po' come quelli, delle volte a me mi capita di andare dentro il bar, vedo gli umarini che giocano alle slot machine, c'è gente che sta lì dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 9... Gli i Umarell, bravo, gli Umarell, e alla fine poi si sputarono la pensione e è festa finita. E lì era la stessa cosa, cioè a un certo punto ho visto la faccia di questo ragazzo qua sbiancare proprio, no? E da lì mi è scattato una cosa dentro di me che praticamente non ho voluto i soldi che avevo vinto e da allora non ho mai più giocato niente, nemmeno. Beh, certo, un giocatore che rinuncia alla vincita vuol dire che ormai è passato nell'altra sponda e giustamente ha smesso. Non poteva più sedersi a un tavolo da gioco uno che abbona la vincita a uno che perde. Bravissimo, e non ce l'ho più fatto, e non ce l'ho più fatto giocare. Fermiamoci. Fabio Felici, vediamo intanto di tirare un po'. Abbiamo visto, toccato il mondo romantico degli antichi giocatori che sembrano una parte differente rispetto ai nuovi giocatori. Cerchiamo di dare una tipologia più esatta al giocatore di cui vogliamo parlare questa mattina. Beh, la tipologia più esatta, appunto, come dicevo prima, andiamo molto sul giovane, ma ci sono anche delle categorie ancora, voglio dire, molto impegnate nel gioco. Alle signore di una certa età piace ancora il lotto, piace il gratta e vinci, quindi le tipologie sono variegate, anche se, ti ripeto, è il pubblico giovane adesso. E proprio per tutelare il pubblico giovane, ricordiamo quello che diceva adesso l'ascoltatore, che si è rovinato perché cerchi di rifarti una partita a poker. In Italia questo è controllato perché noi abbiamo le autolimitazioni su internet, quindi tu prima di sederti al tavolo puoi decidere quanto al massimo giocherai. Poi, preso dal vortice della partita, ti trovi a perdere, non potrai mai superare quel limite, ci vuole una settimana di tempo, quindi il tempo di sbollire tutto, proprio per evitare fenomeni di compulsività al poker. Quello che accade quando il signore si faceva la partita con gli amici su un tavolo virtuale non può accadere, e questo è un bel controllo, quello della... Beh, però diciamo uno che già è malato naturalmente mette, certo, il massimo limite, eccetto i casi limite, che vanno a puttane senza preservativo, vuole rischiare il massimo. Vabbè, quelli ci sono dappertutto. E poi però vedi questa campagna che c'è contro il gioco, sentiamo tutta questa, io questa campagna, tutti questi titoli di quotidiani così, non li vedo sulla droga, non li vedo sul fumo, non li vedo sull'alcol. Il diavolo del terzo millennio è diventato il gioco. Di Gigi Gioco io vorrei ricordare, ad esempio, non si muore, ci si rovinano le famiglie, è vero quello che hanno detto, ma come succede in altri campi. Però questo questo sembra veramente il cancro del terzo millennio da estirpare. Mi verrebbe da chiedere, la soluzione qual è? Togliamo tutti i giochi? Se questa seguiamo la situazione, forse gli italiani così smetterebbero di giocare. E tu dici diventa la fortuna delle bische clandestine. Ma forse diventa la fortuna di Camorra e mafia come era 10 anni fa. Fermo lì. Abbiamo un altro, questo è il tuo punto di vista, lo conosco, è chiaro, l'abbiamo più volte riportato. Sentiamo un altro punto di vista. Emiliano Liuzzi, buongiorno. Buongiorno. Emiliano Liuzzi è un giornalista del Fatto Quotidiano, ha scritto con Antonella Beccaria un libro, Giochi non proibiti, viaggio nell'industria del gioco d'azzardo, chi ci guadagna, perché? Prefazione di Nanni Del Becchi. Io immagino che tu, Liuzzi, sia di pensiero lievemente differente, hai fatto un libro in cui in realtà poni tutti i distinguo possibili e immaginabili sull'idea che il gioco, su cui lo Stato ha una sua lecita e riconosciuta legale attività, non sia poi una cosa così neutra rispetto a infiltrazioni di malavita, a zone limacciose in cui ci si muove fra legale e illegale, o mi sbaglio? No, non ti sbagli, io condivido anche in parte quello che diceva non l'ultimo ascoltatore, il penultimo, almeno quello che diceva nella prima parte. Il problema è che ci sono dei gruppi di potere che hanno nomi e cognomi, che sull'industria del gioco d'azzardo hanno guadagnato e continuano a guadagnare e in maniera quasi incontrollata. Al tempo stesso lo Stato, quando ha avuto bisogno di ricavare dei soldi subito, pochi maledetti e subito, è andata a tassare maggiormente quello che è l'industria del gioco, perché ha un gettito notevole e quindi erano soldi abbastanza facili. Ecco, il governo Monti come si è comportato riguardo al gioco? No, per capire l'ultima fetta istituzionale, quali sono stati gli ultimi provvedimenti nei confronti del mercato del gioco questi ultimi mesi? Ma intanto chiunque si è accorto che le vincite anche al gratta e vinci sono diminuite in questo periodo, perché c'era una perché poi chi gestisce il gioco doveva pagare al governo per far quadrare i conti delle somme di denaro più elevate rispetto agli scorsi anni. Quindi hanno aumentato le tasse da parte di chi gestisce il gioco. È un dato incontrovertibile. Il gioco d'azzardo sostanzialmente è in mano a quattro gruppi, non vorrei fare i nomi, però una delle persone che è coinvolta in questo giro mi risulta che sia latitante tuttora, quindi non stiamo parlando di trasparenza. Ma per reati legati a questa attività del gioco o anche per altre cose? No, anche per altre cose, però. Tu dici, diciamo, come dicevo prima, è una zona grigia in cui è difficile individuare. Una zona grigia. Guardi, a Bologna c'è un docente universitario che ha fatto uno studio sul gratta e vinci e ha spiegato come dal punto di vista statistico il gratta e vinci per esempio sia un gioco al buio, mentre qualsiasi altro gioco uno può fare due conti con le probabilità e con quello che è la statistica. Oggi ci dobbiamo fidare dei gestori. Cioè tu vorresti dire, scusa, per esempio, dicono fino ad oggi al gratta e vinci sono stati vinti 7 milioni di euro e 214 mila spiccioli. E questo dobbiamo prendere per buono questo, ma in realtà non c'è un controllo da parte dal punto provi a capire Liuzzi no, perché voglio capire, scusami Emiliano, voglio capire esattamente, perché forse mi è sfuggito qualcosa, cioè che non sia un gioco chiaramente che sia al buio, è chiaro, uno che fa il gratta e vinci non può avere statistiche di vincita, può giocare sui numeri più usciti o meno usciti, ma non dice assolutamente nulla. Ma il fatto che poi questi fantamiliardi che leggiamo sui giornali vengano vinti, vengano realmente assegnati, secondo te non c'è trasparenza? C'è poca trasparenza su questo e questo è un dato, e poi che ci sia un controllo io non lo metto in dubbio, la trasparenza non c'è. Fermo un attimo, Felice, su questa cosa, noi Fabio Felice. Non sappiamo dove vengono vinte. No, ecco, un attimo, Liuzzi, un attimo. Ma questa è una questione di cultura del nostro paese. In America, quando vincono 300 milioni di dollari, come è capitato, vanno in televisione con il bigliettone, intervistati da TG, ho vinto io, ci ricompro il ranch e quanto altro. In Italia non è mai capitato che il vincitore della Lotteria Italia, molto più povera, 5 milioni di euro, povera tra virgolette, andasse in televisione a dire ho vinto, perché sennò parenti di primo, secondo e terzo grado farebbero la fila vera. È una questione di cultura, di pericolo. Uno dice, se dico che ho vinto, magari posso avere dei ricatti, non lo so. Quindi in Italia non si è mai visto un vincitore. Ma quello che mi sembra che voglia dire Luz, che molte volte anche queste vincite proclamate hanno un aspetto di propaganda, vedere che al gioco si vince. In realtà non però può essere questo? No, qui c'è una legge, cioè anche i gratta e vinci, sono d'accordo che è un gioco al buio. Ogni singolo gratta e vinci per legge ha tecnicamente un payout, cioè la cifra che deve restituire un tot numero di biglietti al vincitore. Mettiamo su 100.000 biglietti, un gratta e vinci deve restituire il 73% in vincite. Quindi sappiamo che fatto 100, 73 ritorneranno ai giocatori. E questo è per legge. Che poi che non venga pagato, io non metterei in dubbio la buona fede di aziende come Lottomatica, è uno dei 30 titoli maggiori quotati in borsa, non si potrebbero né permettere, ma credo non ci sia nessuna volontà di far questo. Quindi io credo che da quel punto di vista siamo molto tranquilli, cioè che le vincite ci sono e vengono pagate. Se parliamo delle slot machine e delle altre macchinette simili collocate nei bar, nei locali pubblici, in tanti esercizi commerciali, certo non possiamo dire che in tutti i casi risalgano alla criminalità organizzata, ma certamente la loro presenza è in molti casi la spia del rapporto tra chi gestisce quell'esercizio e gruppi di criminalità che in questo modo ottengono vari vantaggi. Questo è il giudice Salvini che parla dei bar, delle slot, dei rapporti con l'andrangheta, che è qualcosa di cui stiamo anche parlando, ma ci interessa anche a più vasto raggio capire il rapporto degli italiani col gioco, le nuove maniere di giocare, soprattutto chi sono i nuovi giocatori. Finora hanno chiamato molti giocatori tradizionali, quelli che da decenni sento ai microfoni della radio, che raccontano le loro vicende, fra il romantico, fra il disperato, fra il nostalgico di gioco, di tavolo di gioco, di amici che ti tradiscono. Ma vorrei capire la maniera più impersonale di giocare, quelli che, di cui oggi stiamo parlando, di cui molti si preoccupano, sono i giocatori con le slot machine online, i giocatori con i giochi online, i giocatori di gratta e vinci, quelli che in piccole parti riempono il loro desiderio di giocare fino a diventare in molti casi ludopatici. Nicola, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oh, ecco, lei è un giocatore di poker online. Esattamente, da molti anni ormai. Ma è malato, no? Sì. No, malato no. Guardi, ho 26 anni, ci gioco da 5-6 anni. E investendo cifre insignificanti, insomma, per molti parliamo di 5 euro a torneo, però con una buona costanza, diciamo, non tutte le sere, ma poco ci manca con dei buoni risultati pure. Ah, quindi vince pure? Sì, vinco pure e volevo portarvi il mio punto di vista, perché oltre che giocatore io diversi anni fa ho preso il patentino come croupier e ho anche presieduto a dei tavoli di roulette e di blackjack presso il casino di Venezia, o anche a delle partite private di poker. E purtroppo sì, questo punto di vista mi ha portato alla luce quel lato del gioco assolutamente triste e assolutamente deleterio dei giocatori, perché si va incontro a una vera e propria ossessione da parte di molti quando si approcciano col gioco. E purtroppo quello non lo condivido, come non condivido quei giocatori passivi, come diceva il primo ascoltatore, quelli che si limitano a buttare i soldi. Comunque continuiamo a celebrare questa dicotomia, questa avversione fra il giocatore tradizionale, quello che ha un rapporto fisico con gli strumenti del gioco, e il giocatore in concreto, quello che gioca attraverso appunto i giochi di cui non si ha la percezione di un rapporto né con oggetti né con esseri umani. Paolo, buongiorno. Paolo. Pronto, buongiorno. Sì. La mia testimonianza è quasi simile a quella precedente. Anch'io ho fatto il dealer in quelle sale poker, Texas Poker, quando c'è stato il boom 4-5 anni fa. E lì al momento tutti presi dall'euforia, giocavano a tutto andare. Poi man mano che si andava avanti si saliva sempre, cioè non si contava più di giocare il 50, ma il 100, il 200, il 500, il 1000. Col risultato che alla fine, come alzi le poste, tutti i banchi saltano. No? Cioè c'è la gente che ormai dice, io fatti dare a quello là che me li deve, lui me li deve a me, lui te li deve a te. Con questo cosa voglio dire? Che anche lo Stato, secondo me, se lo Stato si accontentasse di meno, farebbe più felici più giocatori, perché il giocatore è quello che vince, poi lo rigioca, non lo usa per comprarsi. Quindi se fosse più generoso... In che senso generoso? Faccia capire, devo capire. Nel senso che magari nella slot lo Stato si tiene non so quanto, il 20, il 30, no? Se che tenersi il 20, il 30, si tiene il 10, quell'altro 20 lo rimette in gioco, il giocatore che vince continua a giocarli, quindi allo Stato alla fine gli ritornano sempre questi soldi. Mi sembra adesso chiederò all'esperto che qua in studio che proprio le slot queste online siano quelle che rimettono in circolo maggior numero di soldi. Esatto. Rispetto. Allora, Fabio Felici, ricordo direttore di Agimeg, una nuova agenzia giornalistica proprio che si occupa di mercato del gioco. Ecco, rispetto a quanti soldi... Allora, per far capire, lo Stato prende un tot su ogni giocata. Quanto parte se ne tiene, parte la rimette in circolo, diventa montepremi. Quali sono le percentuali? Guarda, diciamo che è diventato molto meno avido lo Stato. 10 anni fa giochi come il Totocalcio. Perché gioca più gente. Perché ci siamo spostati sull'online e l'online per sua natura restituisce molto. Quindi i giochi online, faccio un esempio, il Poker Cash o le slot online, restituiscono ai giocatori, ovviamente in un tot numero di partite, il 97% di quello che è stato giocato. Su quel 3% ci guadagnano le società e una parte va nelle casse erariali, quindi hanno un ritorno per i giocatori molto alto. Ti faccio un esempio, 10 anni fa il Totocalcio restituiva il 30%, quindi lo Stato incassava il 70%, e ti ripeto, era uno Stato forse più avido all'epoca. Adesso ci si è spostato su questo settore di internet che richiede maggiore velocità di gioco e quindi anche più capacità di vincita. Per questo, ti ripeto, in la maggior parte va oltre il 90% di restituzione. Fabio, buongiorno. Fabio è un operatore del settore. Sì, io dissento un po' sul discorso della restituzione dei premi che avvantaggiano il giocatore. Ci corregga allora se abbiamo detto cose non esatte. No, il concetto, per fare un esempio, la percentuale di vincita della roulette, che è uno forse dei giochi nell'immaginario comune più d'azzardo che ci sia. Ma lei parla online o parla... No, qualsiasi roulette. Noi parliamo dell'online. È uguale, non cambia niente. Cambia molto, scusi, è diverso. È un mercato diverso. Se lei punta 36 euro su una roulette... punta un euro su ogni numero e la roulette c'ha 36 numeri più lo zero, la percentuale di vincita del banco è 36/37, nel senso che quindi è percentualmente forse il gioco più equo, con quello più che restituisce di più. Cioè il fatto che un gioco restituisca molto non è di per sé diventa ancora più d'azzardo sulla restituzione del premio. Ma questo è un discorso. Cioè, teorico. Tiene in vita il giocatore il più possibile e continua a giocare. Esatto. Però scusi, io voglio essere molto cinico. Se è un business per lo Stato è chiaro che mette in campo tutti gli strumenti perché possa rendere il più possibile. Poi apriamo un altro versante, se vogliamo entrare. Le ripeto, io sono un operatore che lavora per lo Stato, cioè io ho un'azienda che distribuisce sia gioco fisico come slot machine che vede nei bar, sia VLT, quindi le videolotterie che vede nelle strade. Quante persone lavorano con lei? Guardi, noi nella mia azienda direttamente siamo più di 30, più partecipo in uno dei 10 concessionari di rete che ha 500 persone impiegate. Ma a parte questo il concetto dell'occupazione, okay, la campagna che in questi mesi si sta consumando sui media, per quelli come noi che facciamo fatica per l'aumento continuo della pressione fiscale, l'aumento dei furti, l'aumento di tutto quello che è la crisi, quindi la diminuzione del furti gioco. In che senso? Mi scusi Fabio, per capire meglio, i furti in che senso? I furti nel senso vuol dire che lei, non so se avete visto sul TG5 le famose spaccate, cioè ci sono 10 persone che spaccano i bar con delle macchine che usano come ariete e portano via tutti gli incassi delle macchinette. È frequente questo episodio, diciamo questo... Molto frequente, sì. Esiste anche una maniera di, diciamo, furto informatico rispetto di taroccaggio a distanza? Sì, esiste anche questo purtroppo. Se lei va sui siti specializzati vedrà che proprio l'altro giorno hanno arrestato dei cinesi con delle applicazioni dell'iPhone che entravano essendo elettromeccaniche, alla fine le macchine sono in giro, c'è un segnale elettrico che deve dare che dà la possibilità. Quindi concludo, ascolta Fabio, lei dice la categoria di coloro che gestiscono questi giochi in questo momento è penalizzata? la categoria è sempre più penalizzata, cioè è estremamente penalizzata dal punto di vista mediatico, e gli antichi fausti della redditività si va sempre più ad assottigliare, e se voi poi vedete i bilanci delle aziende, quelle che proprio lavorano sul territorio sono... E qual è l'indotto nazionale, per avere un'idea? Beh, siamo intorno, per quanto riguarda il settore dove lavora questo signore, siamo oltre i 45 miliardi di euro di raggi giocato, voglio dire. Poi c'è la parte tornei vinci, la parte che va a loro, quindi diciamo che si paga il 12% di tasse, quindi su questi apparecchi. Torniamo allora a Emiliano Liuzzi, che ricordo che ha scritto per l'Imprimatur editore Giochi non proibiti, viaggio nell'industria del gioco d'azzardo, chi ci guadagna e perché. Emiliano, nel vostro libro inchiesta, alla fine, se uno potesse sintetizzare, cosa avete scoperto di nuovo o di diverso rispetto a quello che stiamo cercando di capire con le testimonianze degli ascoltatori? Cosa c'è dietro tutto questo? Ma intanto che, riferendomi all'ascoltatore che gestisce una sala, vorrei sapere quanto paga i dipendenti e con quali contratti, perché poi vengono fatti... Glielo chiediamo subito, Fabio. Ha sceso, se lo recuperiamo lo vediamo. Intanto vai avanti. Perché spesso vengono fatti dei contratti a tempo, le persone fatte lavorare in orari, quindi che siano penalizzati da campagne stampa, su questo ci credo poco. Nessuno fa campagne stampa, la stampa si preoccupa quando ci sono persone, appunto, come il giudice Salvini, che dicono delle determinate cose, con dei riscontri in mano. Se il giudice Salvini dice che ci sono degli interessi in gioco nell'industria dell'azzardo da parte dell''ndrangheta, della camorra, della mafia, noi... Ecco, abbiamo recuperato Fabio, così gli puoi fare la domanda direttamente. Fabio, è nuovamente in linea? Sì, buongiorno. Emiliano Liuzzi, che è il giornalista che ha scritto il libro Giochi non proibiti, chiedeva con quale tipo di contratto di solito vengono regolati i rapporti con i lavoratori nel settore in cui lei appunto sta operando. Noi abbiamo tutta gente a tempo indeterminato e il contratto del commercio. È l'unico caso in Italia, l'unico è lei. No, io le credo. Le dico anche il motivo. Guardi che il problema è che i miei collaboratori, come i collaboratori del settore, devono essere persone strafidate, perché raccolgono la parte che va allo Stato, che è la parte più consistente. E tanto per darle un'idea, la media nazionale delle macchinette più o meno si aggira intorno ai 250 euro in al giorno, ok? Su questi 250 euro di in, il 75 qualcosa viene restituito al giocatore. La tassa che prende lo Stato è pari circa, tra Stato, concessionario di rete e quant'altro, circa un 12,5%, ok? A noi e al barista resta un 5% lordo su quello che giocano, ok? Quindi vuol dire però vedi, anche nella comunicazione commettete dei difetti, non viene restituita al giocatore, viene restituita ai giocatori. Quindi non è che se uno va davanti a una macchinetta e mette un tot di soldi viene rimesso come montepremi, viene rimesso come montepremi possibile. È un ciclo chiuso, la macchina è un ciclo chiuso, le AVP hanno un ciclo chiuso, ogni 15.000 euro introdotti ne devono restituire per legge il 75%. Con i 15.000 euro introdotti, certo. Su un ciclo chiuso, non è aleatorio. Cioè, se io gioco su quella macchina, 15.000 euro sicuramente, alla fine di 15.000 euro restituito. Ma fermiamoci solo un secondo. Mi scrive un altro ascoltatore, dice: non avete toccato un argomento, con 3 slot machine un bar si paga l'affitto. E allora? Fabio Felici, direttore Agimeng. No, rispetto a questa domanda. Vabbè, ma è normale, questo evidentemente è una persona che, voglio dire, che con il gioco c'ha un guadagno importante, che anche gli esercizi commerciali non è che se la passino bene, quindi le slot possono essere anche una risorsa, non vista solo come una malattia, perché insomma si parlano di numeri. Io prima, l'ascoltatore prima ha detto molti si rovinano, mi piacerebbe vedere questo molti che numero è, 100, 200, 100.000, 1.000.000, perché dati su quanti persone si rovinano al gioco certi non ce ne sono. Ma Fabio, fammi capire qual è il tuo punto di vista, poi sentirò immediatamente il punto di vista di Liuzzi, che dietro il gioco esiste una campagna di demonizzazione perché per un principio superiore di ordine morale, perché non si vuole che comunque lo Stato diventi avalli l'idea che si faccia un'attività perniciosa che fa male oltre al corpo anche all'anima, o ci sono altri motivi? Guarda, io chiederò agli Uzzi la stessa cosa. Il motivo vero è una di, per me è il decimo segreto di Fatima, vorrei capirlo anch'io, perché non riesco a capire veramente questo accanimento contro un settore che è un, soprattutto la vogliamo chiamare tassa, una tassa volontaria, meglio andare adesso a comprarsi un Gratta e Vinci o pagare l'IMU, perché, cioè, sì, ma perché l'opinione generale è che il gioco sia un'attività riprovevole, è come se lo Stato chiedesse una tassa per ogni atto sessuale che compie l'italiano, cioè come tassa, ma in nessun altro paese del mondo c'è questa campagna, cioè parliamo dell'Inghilterra, parliamo della Francia che adesso sta seguendo l'Italia in tutti i giochi, parliamo della Germania, parliamo della Svezia dove ci sono giochi che vengono praticati da anni, questa campagna non c'è. Io capisco, noi siamo un paese cattolico, io sono cattolico e tutto quanto, ma non per, cioè non capisco il motivo di questo accanimento contro altri settori che fanno più male e non c'è. Allora, la stessa domanda la faccio a Emiliano Liuzzi, che ha scritto un libro, ricordo, Giochi non proibiti, edizione Imprimato, che proprio mostra l'aspetto da giornalista d'inchiesta, l'aspetto pruriginoso, limaccioso che c'è dietro, non soltanto legato all'etica, alla morale, ma anche a loschi affari. Secondo te, perché c'è questo tipo di dibattito attorno al gioco? Ma è ovvio, ma cosa stiamo parlando? Ma le partite di calcio perché venivano truccate? Ai fini delle scommesse. Certo. Perché molte macchinette, molti videopoker, quando la finanza fa dei controlli, scoprono che sono taroccati. Di conseguenza è ovvio che ne nascano casi di cronaca, giusto? Il Gratta e Vinci, come ho detto prima, e lo dicono docenti universitari, non lo dico io, è un gioco al buio, il guadagno che di chi gestisce è spropositato rispetto a quello che poi è il servizio offerto. Non solo, in Italia, siccome non lo so o siamo migliori o siamo peggiori degli altri, i casinò sono tutti municipalizzati, di conseguenza questo vuol dire che il casinò di Venezia, dove un ascoltatore prima ha detto di aver lavorato, ho sentito, il casinò di Venezia è l'unico al mondo in perdita, perché c'è un giro di denaro dietro. Io andai a fare una ricerca e dissi, ma com'è possibile che un casinò perda e il comune sia costretto tutti gli anni, quando si va a chiudere il bilancio, a mettere dei soldi in quella che è quell'industria? È chiaro, perché chi gestisce il casinò poi dà dei soldi sotto forma di sponsorizzazione che sono folli. Ecco, se tu, ho trovato 20.000 euro, sì, all'associazione del baccalà mantecato del casinò di Venezia. L'ho scritto sul Fatto, nessuno mi ha smentito e quindi non ho problemi a ripeterlo qua. È l'unico, il casinò di Venezia è l'unico al mondo in perdita, l'unico. Ci sarà un problema in Italia, ecco, non sì, è però, un problema. Però è più vasto rispetto a casino. Non c'è una morale cattolica che impedisce di giochi, c'è una, ci sono delle leggi che vanno rispettate. Ecco, allora diciamo, scusami Luzzi, no, solo per capire, le leggi ci sono, diciamo c'è una maniera lassa di tenere conto delle leggi, sennò il sistema così com'è organizzato in Italia del gioco cosiddetto d'azzardo è congruo a quello di altri paesi, o abbiamo delle cose in cui bisognerebbe rimettere le mani, o c'è una fisiologica situazione nel nostro paese per cui anche se ci sono leggi ci sono organizzazioni che se ne approfittano? Nella vicina Austria i casinò non sono municipalizzati ma fanno parte di una società privata che ha aperto casinò anche in Australia. La Casinò Austria ha i casinò anche in Australia, una società privata che dà lavoro a dei dipendenti. Non sono mai venute fuori problemi di croupier arrestati. Ma per i grandi giochi popolari, io sto parlando Gratta e Vinci, videopoker online, slot machine online, chi dovrebbe occuparsene? Il Gratta e Vinci, veramente, basta, dopo la stretta del governo Monti, ma la verifica non è nemmeno necessaria farla su grandi numeri, basta andare da un rivenditore e chiedere, da un anno a questa parte sono diminuite le vincite? Il rivenditore gli dirà sì, ne ho girati 50, 50 mi hanno detto sì, sono diminuite le vendite. Fermiamoci un attimo, Enrico, scusa un attimo, Enrico, buongiorno. Buongiorno, senta, io chiamo da Napoli e volevo testimoniare praticamente la mia niente, c'avevo un'attività commerciale, un bar, è nel 2000, praticamente ero in procinto, insomma, di installare questi videopoker. In quel periodo i giornali ne parlavano tutti i giorni, famiglie rovinate, in prima pagina, dappertutto si sentiva famiglie rovinate, la guardia di finanza sequestrava queste macchinette. Dopodiché mi sono accorto che niente, sono diventati illegali, cioè, adesso sono collegati all'agenzia delle entrate e se per caso per un'ora non vengono utilizzate, non stanno in funzione, praticamente ti chiamano e dicono ma ci sta qualcosa che non va, come mai non funzionano queste macchinette? Sono stato diventato spietato perché c'ha dei guadagni da capogiro e praticamente veramente posso notare che ci sono moltissime persone che si stanno rovinando. Vabbè, questo è il suo punto di vista. Allora Enrico dice adesso ci sono le macchinette controllate dallo Stato, c'è anche una grande attenzione rispetto a queste macchinette. Fabio Felici, Agimeg, direttore di Agimeg, vediamo di tirare una conclusione. Ma quello che io volevo dire questa lassità normativa che c'è in generale in Italia, ovviamente il gioco non fa eccezione, c'è molta lassità normativa nel senso che le leggi ci sono e non sempre sono applicate per bene, ricorsi, controricorsi, i TAR sono pieni, i giudici se guadagnassero un euro per ogni ricorso che c'è sul gioco sarebbero miliardari, sarebbero, questo perché non tutti vanno d'accordo, perché è un impegno importante, però torno a dire qui non parliamo di un onlus, parliamo di uno Stato che ci guadagna società, 120.000 detti, 5.000 aziende coinvolte, il 4% del PIL, e qualcuno storce la bocca, dice il nostro è un paese basato sul gioco. Non è così. Noi siamo il paese con il gioco più antico al mondo, quindi siamo i primi in questo senso. Non so se è un vanto o non è un vanto, però basta demonizzare il gioco. La maggior parte degli italiani lo fa in maniera divertente. Siamo sotto le feste, speriamo che qualcuno un biglietto della Lotteria Italia se lo porti a casa davvero. Questo è il punto di Fabio Felici. Grazie Emiliano Luzzi, grazie agli ascoltatori, ci sentiamo domani.